L'ultima puntata del mese di giugno qui alla Rosa Purpurea, mentre il caldo comincia a farsi sentire nell'inizio di estate italiana e anche nelle sale cinematografiche, dove comincia a scarseggiare un po' il prodotto, ma fino a un certo punto, perché qualche titolo di cassetta di grandi ambizioni c'è e ci sarà. Noi comunque siamo qui imperterriti a raccontarvi tutto il cinema possibile, a cercare qualche spigolatura nella distribuzione cinematografica italiana e anche a raccontarvi le novità, i festival, a giocare insieme, insomma a fare tutto quello che ogni settimana cerchiamo di fare qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti. Noi cominciamo subito con il mettere in fila gli ingredienti di questa puntata. Dicevamo alcuni film, 5 quelli di cui ci occuperemo. Il film più atteso dal grande pubblico di questa settimana è certamente Transformers, il secondo capitolo di questa nuova saga pop tecnologica inventata e lanciata da Michael Bay e Steven Spielberg. Parleremo anche di un film che ha gli antipodi con questa produzione. Tanta è la facilità di arrivare in sala per Transformers, tanta è stata la difficoltà per il film Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti, che sarà ospite qui fra poco nel nostro programma. Qualche film d'autore indipendente dall'Europa e dal mondo, e poi i festival. Questa settimana una puntata a Bologna per lo splendido Festival del Cinema Ritrovato. Ne parleremo con il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli. Giocheremo insieme con il nostro DVD Game, ascolteremo le tracce del film misterioso di questa settimana per poter vincere i DVD. E allora, cominciamo subito con il nostro audio sommario, che come sempre è una composizione di alcuni pezzi dei trailer dei film in uscita questa settimana. Ascoltiamoli insieme. Sai mantenere un segreto? Lo sai. Più ci provo e meno ci riesco. Racconta. Questo sabato, dopo aver fatto il mio ultimo viaggio, ho deciso di ritornare a Oslo in aereo. In aereo? In aereo. Non mi dire. Hey! James! Signor, non ho nessuno che guardi mio figlio. Ci penso io, grazie. Devo dirgli dove può trovarlo, signor. E con la vicina, al piano di sopra. Non è possibile. Se non riceve i soldi entro oggi, lo sbatte in mezzo alla strada. Non posso. Aiutami. Mi dispiace, signorina. Non posso. Appartamento 21. Signorina, non è possibile. Una paghetta di 15 euro a settimana. Così ti prendi qualcosina. Una pizza, un giornaletto. E non fai brutte figure. Ma non farmi mai più niente alle spalle. Ehi, è il meglio che sai fare, questo è il meglio che sai fare! Mostriciattolo, che ci fai qui? Ai! È il mio occhio! Piano, dea della guerra, sono solo un piccolo drone, recupero rottami! E io sono il tuo peggiore incubo! L'ultimo dialogo che avete sentito, quello fra il robottino e la bellissima Megan Fox, è relativo al secondo capitolo della saga di Transformers, ovvero La vendetta del caduto. Il primo Transformers si era concluso con la sconfitta dei cattivi Decepticon, con i buoni Autobot, fedeli collaboratori del governo americano, e con il protagonista Sam che, salvato il mondo, poteva finalmente dedicarsi ad una vita normale. E aveva portato a casa oltre 300 milioni di dollari solo in America e 750 in tutto il mondo. Ora, Michael Bay, il regista tutta azione di Armageddon e Pearl Harbor, ci riprova con questo Transformers, La vendetta del caduto, sempre con la produzione di Steven Spielberg. P, dobbiamo parlare del college, ok? Non ti porto con me. Si comincia con Sam, Shia LaBeouf, che sta per trasferirsi al college fra i pianti di mamma e le preoccupazioni del papi. Guarda che posto! Mi sento già più intelligente! Sì, aria da 40.000 dollari all'anno. Gli ultimi baci con la fidanzata mozzafiato Micaela, Megan Fox, che fa il meccanico in hot pants, come nel migliore immaginario erotico maschile, e la promessa di risentirsi via chat. Ciao, bellissima. Ti ho fatto un kit per innamorati lontani. Comprende una webcam, così ci possiamo vedere sempre. Carino, non vedo l'ora. Dopo un breve incontro con gli improbabili e ipertecnologici compagni di stanza, Sam comincia ad avere strane visioni. Geroglifici incomprensibili gli invadono la mente. Riesce a trascriverli, ma non a comprenderli. Ho avuto un vero e proprio collasso mentale durante la lezione. Vedo dei simboli. Ti abbiamo nascosto molto, Sam. Non è la mia guerra. Temo che lo diventerà. Ma da un angolo del cielo, gli indomiti Decepticon, i Transformer cattivi, stanno preparando il contrattacco. Vogliono impadronirsi della scheggia dai superpoteri che Sam ha lasciato in custodia alla Girlfriend per sferrare l'assalto finale alla Terra. Ho toccato la scheggia del cubo. Ce l'hai, sì? Sì, certo, la tengo in cassaforte sotto chiave. Michela, non devi toccarla, ok? Nessuno sa dove sia. Io lo so. Sei gnocca, ma non tanto sveglia. Che cosa hai da guardare a massa di bava? Sam, Micaela, l'amico Leo e una manciata di Autobot, fra cui la fida Chevrolet Camaro gialla di nome Bumblebee, andranno a stanare lo strano agente Simmons, un John Turturro di grande ironia, dalla macelleria egiziana nella quale si è ritirato. E insieme a un vecchio Transformer buono che ormai vegetava sotto forma di aereo stealth nello Smithsonian Museum di Washington, organizzeranno la resistenza prima della battaglia finale. Quello che stai per vedere è top secret. Non dirlo a mia madre. Assomigliano ai simboli che hai visto? Dove li hai presi? Gli archeologi hanno trovato questi strani marchi nelle antiche rovine di tutto il mondo. Che significano? Un messaggio? Una mappa? C'erano 14 robot nel primo film, 46 in questo secondo. Quando colpisce la piramide di Cheope con un pugno, la mano di Devastator viaggia ad una velocità di 630 km l'ora. Se i robot venissero smantellati e le loro componenti sparse in terra, occuperebbero una lunghezza di 180 miglia, cioè la misura che intercorre da un lato all'altro della California. E ancora, Transformers 1 ha occupato 20 terabytes di spazio su disco. Transformers 2 ne ha occupati 145, 7 volte di più. 145 terabytes, tanto per dargli una misura, una dimensione, riempirebbero lo spazio di 35.000 DVD, uno sopra l'altro, senza custodia, raggiungerebbero un'altezza di 45 metri. Cosa ci dicono queste cifre? Che le tecnologie applicate al cinema, o meglio a un certo tipo di cinema, hanno preso il sopravvento e che la resa sullo schermo in termini di stupore per lo spettatore è ormai proporzionale a quanto la tecnologia sa mettere in campo. Ma non sempre, anzi quasi mai, questi valori si riverberano anche sulle qualità narrative ed espressive del film. Anche in questo caso, tanto il primo capitolo era innovativo, in un certo senso una scommessa, cavare un film da giocattoli di plastica e ferro, e toccava anche discorsi tipo rapporto uomo-macchina, insomma aveva delle ambizioni narrative, tanto questo secondo film abbassa le pretese, mette in scena rapporti quasi disneyani, ammiccando però al tempo stesso alle rotondità di Megan Fox per parlare da una parte ai bambini e dall'altra agli adolescenti. Ma al di là delle stupefacenti trasformazioni degli Autobot, di un sonoro da Oscar, insomma di un impianto tecnico d'avanguardia, restano tanti inseguimenti e un mare di conflitti a fuoco in un film decisamente troppo lungo. Andiamo ad analizzare un po' il lavoro su questo film ascoltando il regista Michael Bay. Transformers è stato il primo film in cui ho usato personaggi animati che non c'erano davvero, che avevano emozioni create fuori dal mondo reale. È stata una grande esperienza per me, penso che in questo secondo film abbiamo fatto di meglio. È come aver girato un film in live action, poi uno in animazione, e averli mischiati insieme. Mi piacciono le sfide con me stesso, mi piace mostrare alla gente in giro per il mondo una realtà nuova. Prosegue il nostro viaggio attraverso le uscite cinematografiche di questo fine settimana con un film che ci mette di fronte ad attori di grande successo, di grande fama hollywoodiana. Pensate ai nomi di Harrison Ford, di Ashley Judd oppure a quello di Ray Liotta. Però è un film piccolo, a basso budget, anche se finanziato da Harvey Weinstein, che è stato sicuramente uno dei più grandi produttori americani, anche se da qualche anno ha scelto un po' una strada un po' più indipendente. E quello che è importante è che tutti questi nomi vengono messi al servizio di una causa nobile, che è quella del raccontare le ansie, le paure, le difficoltà degli immigrati in America. È un pianeta che a volte viene esplorato dal cinema americano, per esempio lo è stato recentemente con lo splendido L'ospite inatteso all'inizio di questa stagione cinematografica italiana, ma a volte lo è in chiave spettacolare. Qui invece, attraverso gli occhi di una pattuglia di agenti dell'Immigration and Customs Enforcement di Los Angeles, capitanata appunto dal personaggio interpretato da Harrison Ford, si va un po' dentro questa vita sempre un po' braccata che questi immigrati clandestini vivono. E allora facciamoci raccontare questo film che si intitola Crossing Over ed è diretto da Wayne Kramer, dalla nostra Barbara Righini. Intreccio di storie di immigrazione clandestina negli Stati Uniti. Crossing Over è costruito un po' alla Crash e la riflessione gira tutto attorno alla sospirata green card che permette di lavorare e vivere negli Stati Uniti. Umanità varia, di ogni estrazione sociale, è disposta a uccidere, truffare, prostituirsi pur di mettere le mani sulla sospirata tesserina. Ecco, la direttrice del casting conosce la mia situazione e mi ha dato fino a venerdì per presentare il mio I9. C'è un tipo che ho conosciuto tramite la palestra. Lavora in uno di quei negozi di fotocopie su Fountain. Dai, non puoi fare così. Con un permesso di lavoro falso, Claire. Possono mandarti dentro per 4 anni. Ci sono dunque Claire, aspirante attrice australiana, Gavin, musicista inglese, e poi un'operaia single messicana e il figlio di un negoziante cinese. L'America, forse, prima dell'11 settembre, era un grande paese accogliente, ma dopo gli attacchi, le maglie dell'ufficio immigrazione si sono strette, gli ufficiali sono diventati ancora più rigidi, mentre il sospetto, al limite della paranoia, aleggia nell'aria. Sei Taslima Jahangir. Sono l'agente speciale Fatkar. Mi puoi accompagnare in camera tua? Perché siete qui? Non lo capisco. L'hai scritto tu, questo? Perché lo ha lei? Ci è stato portato dal preside della tua scuola. Era preoccupato della posizione che hai preso. Credevo che ci fosse una cosa chiamata libertà di parola in questo paese. Hai una simpatia per i dirottatori dell'11 settembre. Quasi che la ritenessi una causa giusta. Non è quello che ho scritto. Io ho scritto che capisco perché hanno fatto quello che hanno fatto, non ho scritto che lo appoggio. E c'è chi è pronto ad approfittare, chi ha l'incredibile potere di decidere chi resta e chi parte, ha ovviamente grande ascendente sugli immigrati che aspirano a diventare regolari. Ecco allora che la green card diventa merce di scambio, anche se non sempre si resta impuniti. Favorire l'immigrazione clandestina è un reato, infatti, e il perfido Cole, interpretato da Ray Liotta, pagherà. Dovete proprio farlo, dovete ammanettarmi. Sì, purtroppo sì. Cole, dove stai andando? Dove? Ma che succede? Suo marito è in arresto per frode all'ufficio immigrazione, signora. Crossing Over è un film di denuncia sociale, ma l'insieme delle storie, tutte interessanti, compone un quadro faraginoso. I personaggi risultano un po' scontati e incasellati in categorie. L'impianto generale poi non sorprende, lo si era già visto con altra maestria nei film la cui sceneggiatura era firmata da Guillermo Arriaga. Anche gli attori sembrano recitare con il pilota automatico, bravi tutti, ma non memorabili, mentre il ruolo dell'agente giusto, Max, interpretato da Harrison Ford, sarebbe stato perfetto per Tommy Lee Jones. Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd in Crossing Over, raccontato da Barbara Righini. Noi apriamo la prima finestra sul DVD Game di questa settimana e vi facciamo ascoltare la prima traccia del film misterioso. Prenotato. Cosa? Mi prenoto per la guida di montagna. Hai 13 anni. Mi dispiace, prenotato. I 13 anni non possono prenotarsi. Stacci. La rosa purpurea @radio24.it per provare a indovinare di che film si tratta e vincerne quindi il DVD. Più tardi, come sempre, ci saranno un altro paio di possibilità. Adesso piccolo break prima di passare alla prossima proposta, alla prossima nuova proposta di questa settimana, perché vogliamo vedere come erano andate le cose al botteghino 7 giorni fa. C'era stato un cambio al vertice, il cinecocomero targato Vanzina aveva lasciato la leadership, sulla quale ora punta ovviamente Transformer, ma vediamo chi l'ha occupata provvisoriamente nella Screen Parade curata da Daniela Fagione. Causa maltempo, il pubblico torna in sala anche nel primo weekend d'estate per la gioia del botteghino, con 3 nuove uscite in top 5 e un cartoon che a sorpresa conquista la vetta. Fuori Angeli e Demoni e Terminator è quinto Una notte al museo 2, che perde una posizione ma guadagna altri 278.000 euro sfiorando i 6 milioni e mezzo, 336.000 euro invece per il debutto al quarto posto della ragazza del mio migliore amico. Noi lavoriamo insieme. Non abbiamo neanche fatto sesso! Subito sul terzo gradino del podio l'addio al celibato di Una notte da leoni, che incassa consensi e 640.000 euro. Ci dobbiamo sposare tra 5 ore! Io non ci conterei molto. Secondo posto per un'estate ai Caraibi, poco sotto gli 820.000 euro. Al secondo weekend in sala il film dei Vanzina, ha già ceduto lo scettro, che passa al cartoon 3D Coraline e la porta magica, 920.000 euro, e la miglior media per sala per il film tratto dal romanzo di Neil Gaiman. È padrona di un mondo dove tutto è più bello, ma è solo una trappola. E ora un salto in Scandinavia, nella fredda e innevata Norvegia invernale, per raccontarvi l'ultimo film di Bent Hammer, un regista che ci ha sempre raccontato delle belle storie con grande delicatezza. Questa volta dipinge il ritratto di un uomo nell'ultima settimana di lavoro prima di andare in pensione. Il film si intitola Il mondo di Orten. Caro Odd, cari colleghi, sappiamo tutti che Odd non ama stare sotto i riflettori. Ne ama i festeggiamenti. Ma stavolta non la farei franca, Odd. Poiché è uno dei più esperti ed affidabili macchinisti che abbiamo mai avuto tra noi, è per me un grandissimo piacere, quale membro dell'Associazione dei Macchinisti, consegnarti la locomotiva d'argento. Ti auguriamo ogni bene e ogni felicità per la tua meritata pensione. Pronti, colleghi? 1, 2, 3. È l'ultima settimana di lavoro per Odd Horten. A 67 anni ha deciso di smettere di guidare treni nelle nevi in Norvegia e di andare in pensione. Odd è una persona riservata, solitaria e taciturna. Per 40 anni ha badato a se stesso, fra un convoglio e l'altro. Il suo mondo è fatto di pochi gesti rituali e di qualche persona speciale, come l'amica Svea. Allora questo fine settimana finisce tutto? Sì, finisce tutto. E io, dopo tutti questi anni, adesso che cosa farò? Potrei sempre venire a trovarti. O la vecchia madre malata, cui Orten rende visita regolarmente in una casa di riposo. Ti trovo bene, sai? Ti ho portato un po' d'uva. Mi hanno detto che ieri sera sei stata brava, hai mangiato. Così, improvvisamente di fronte alla libertà, Orten, dapprima a disagio, inizia lentamente a scoprirsi e a fare quelle esperienze e quelle conoscenze che nella sua vita piena di paletti, un po' come quella di molti di noi peraltro, non poteva fare. L'imprevisto entra nella sua esistenza, come quando un bizzarro ex diplomatico lo convince ad andare in giro per Oslo in macchina ad occhi bendati. Ho guidato alla cieca in ogni città in cui ho soggiornato. Ormai sono passati tanti anni, ma ci penso continuamente e sono persuaso di possedere ancora questa abilità. Le piacerebbe una passeggiata in macchina per le vie di Oslo? Io non saprei. No, no, stia tranquillo. Possiamo farlo domani allo spuntare dell'alba, prima che inizi il traffico. Sì, sì. Ottimo, siamo d'accordo. Bent Hammer aveva già sfiorato il tema della vecchiaia nel suo premiatissimo Kitchen Stories, un film che vi consiglio di riscoprire, disponibile in DVD. E questo suo Horten rinforza la nuova attenzione del cinema europeo per le storie della terza età, nel solco del film tedesco Settimo Cielo, ancora in qualche cinema italiano. Ma qui il regista norvegese tratta il tema da un'angolazione più universale, cercando di indagare su quel che accade a una persona che improvvisamente si trovi libera da lacci e lacciuoli, a volte anche rassicuranti, che si è stretta addosso lentamente nel corso di una vita. Solo una svolta improvvisa ci fa cambiare esistenza, perché da soli non ne avremmo il coraggio, e la pensione è una di quelle svolte. E quel che viene fuori è che siamo quel che facciamo, e se lo facciamo per una vita, sempre nello stesso modo, come Orten, siamo disorientati dalla libertà. Ma qualcosa dentro l'animo umano, qualcosa di istintivo, vede quello spiraglio di nuova luce e ci porta verso quella luce, come il giovane ramo di una vecchia pianta. Interessante anche la riflessione sul tema del tempo, il vero lusso della nostra epoca. Ci vuole tempo a disposizione, attenzione, non il tempo libero, come lo intendiamo noi, ma tempo vuoto, per scoprire se stessi e gli angoli più nascosti della propria anima. Bisogna lasciare spazio alla casualità, che necessita di una disposizione d'animo totalmente libera. Ecco, il caso e il vuoto, in una dimensione temporale, sono gli aspetti che caratterizzano questo film, ordinato e preciso nelle inquadrature, come sempre il cinema di Hammer, ma, in maniera contraddittoria, freddo e lontano dall'anima dei personaggi, proprio da quell'anima che vorrebbe raccontare. Insieme qui alla Rosa Purpurea per parlare di un altro film che trova circolazione in questo periodo estivo e parliamo di un film presentato quasi un anno fa ormai alla Mostra del Cinema di Venezia, un film che fece molto discutere, molto parlare in quella occasione. Si titola Puccini e la fanciulla, è un film di Paolo Benvenuti, regista di grande rigore estetico, particolarmente apprezzabile, insomma, e sempre molto coerente, e che sulla base di documenti originali ha tirato fuori dalla vita del maestro Puccini una storia che, appunto, come dicevo, ha fatto molto discutere, quella della giovane cameriera di casa Puccini, Doria Manfredi, che venne un po' coinvolta e travolta da una serie di sospetti del tutto iniqui che le rovinarono la vita, sospetti di essere la giovane amante del maestro, proprio perché era depositaria di un segreto invece che riguardava la famiglia. Ma noi di questo film vogliamo proprio parlare con il regista Paolo Benvenuti, che è in collegamento con noi. Buongiorno Paolo. Buongiorno agli ascoltatori. Grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea su Radio 24. Allora, dicevo, intanto finalmente, in un certo senso, il film può essere visto per esempio al Cinema Mexico a Milano, sempre benemerito, no? Il cinema, certo, del grande San Cassani. Ti chiedo, Paolo, perché ti sei concentrato su questa vicenda apparentemente marginale della vita di Puccini? Ma sai, io mi sono sempre occupato di storie apparentemente marginali. Se te guardi la mia filmografia, sono tutte un po' così, le mie storie. Sono apparentemente marginali, ma trattano un po' tutte il tema dei rapporti di classe. E qui siamo proprio di fronte a un esempio particolare di rapporti di classe. Da una parte una famiglia molto ricca, ricchissima, famosa nel mondo, e dall'altra un piccolissimo paese di contadini e pescatori che vivono praticamente intorno alla mensa di questa famiglia. La povera Doria è una contadinotta che viene impiegata come cameriera in casa Puccini e rimane travolta dalle trame delle relazioni complesse che esistono in questa famiglia, nella famiglia Puccini. Questa storia mi ha coinvolto e mi ha entusiasmato dopo una ricerca che è durata alcuni anni su documenti che via via diventavano sempre più interessanti e sempre più inediti. Nella mia ricerca abbiamo scoperto una valigia dimenticata in una cantina dove sono saltate fuori lettere di Puccini, documenti assolutamente straordinari e soprattutto una collezione di lettere che riguardavano in particolare proprio la vicenda di questa cameriera. Cosa, mentre a Puccini succedevano questi fatti attorno a lui e dentro di lui, lui stava componendo un'opera che è La fanciulla del West, esatto. Opera di grandissima modernità, peraltro. Esatto. Ecco, ti chiedo quanto c'è di quella vicenda e di quel personaggio di Doria dentro il personaggio della fanciulla. Allora, diciamo che la vicenda della fanciulla del West, rappresentata dall'opera La fanciulla del West, è stata in qualche modo la chiave per capire esattamente cosa era successo in casa Puccini. Perché il famoso don giovannismo di Puccini, tanto declamato, in realtà si riduceva a questo piccolo fatto, che il maestro aveva bisogno, ogni volta che scriveva un'opera, di innamorarsi di una fanciulla che assomigliava all'eroina dell'opera che stava scrivendo. Ora, La fanciulla dell'Oest è la storia di una ragazza che gestisce un saloon frequentato da fuorilegge, cercatori d'oro, sceriffi, eccetera. Ora, la povera Doria, che era invece una contadinotta un po' introversa e timidissima, non aveva nessuna somiglianza con la fanciulla dell'Ouest, per cui si trattava di trovare una donna nell'entourage pucciniano che assomigliasse appunto alla Minnie della fanciulla dell'Ouest. E così è stato. Noi abbiamo scoperto che di fronte alla villa Puccini c'era sul lago una palafitta, gestita da una giovane e avvenente fanciulla che si chiamava Giulia Manfredi ed era la cugina della cameriera De Puccini. Era lei che assomigliava alla fanciulla del West, per cui la relazione di Puccini era con questa ragazza. Il problema è che Puccini usava la sua cameriera Doria come messaggera d'amore per incontrarsi con la cugina. Per cui la moglie di Puccini ha equivocato sui rapporti tra Puccini e la cameriera, non capendo invece che la cameriera era solamente un tramite. Paolo, ti faccio un'ultima domanda. Sei passato attraverso il racconto dei ladri ebrei dello straordinario e secondo me ancora insuperato, fammelo dire, Confortorio, del brigante maremmano Tiburzi, della Costanza d'Alebbiaro strega da bruciare. In che altri personaggi potrebbe incarnarsi il tuo racconto dei conflitti di classe? Ma niente, io adesso sto pensando a un progetto che mi porto dietro da diversi anni e che però non so mai se riuscirò a realizzarlo, perché è una specie di sogno, è una metafora sul cinema, è un film su Caravaggio che dipinge un quadro ed è la storia di come Caravaggio ha dipinto questo quadro e in quel come c'è la mia idea di cinema. Grazie a Paolo Benvenuti, regista di Puccini e la fanciulla. Paolo, spero di averti presto ospite ancora qui da noi su Radio 24 alla Rosa Purpurea. Grazie, arrivederci. E salutato Paolo Benvenuti, noi passiamo alla seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Ascoltate bene. Ok, Sean, comincia a parlare con me. Allora, Anna, ci vieni spesso qui? Ah, ti prego, questa non può essere la frase migliore che ti è venuta in mente. Sto facendo conversazione con lei. No, Sean, non vengo qui molto spesso. Pronto? La Rosa Purpurea, @radio24.it, è come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica. Dovreste aver cominciato a capire di quale ambientazione stiamo parlando, più tardi l'ultima traccia del nostro DVD Game. Ed eccoci all'ultima proposta cinematografica di questo weekend. È un altro film italiano ed è un film molto particolare per il taglio, quello della storia collettiva, che non è particolarmente frequentato dal nostro cinema. Sono tre storie in giro per l'Europa che raccontano un po' il malessere del nostro vivere quotidiano. Il film è firmato da Ann Ritta Ciccone, si intitola Il prossimo tuo e lo ha visto per noi Daniela Fagione. Oh, Matteo, là non ti aiuta, sono due ore che sto qua, divento vecchio, e namo? Parli per invidia perché sei senza Dio. E poi sei già vecchio, di che ti preoccupi? Jean-Paul è un reporter di guerra francese che non riesce a superare il trauma di essere stato l'unico della sua squadra a sopravvivere a una missione in Iraq. Eva è un hostess finlandese che si isola in una casa fuori città, restia ai rapporti sociali, il suo passatempo preferito è la corsa, che assomiglia di più a una fuga. Maddalena è una pittrice italiana che ha successo nell'arte e con gli uomini. Se nei quadri però si esprime, i compagni li allontana subito dopo il primo incontro. Senti Maddalena, io non voglio vivere dormendo fino a luna, mangiando le pizzette alle mostre. Non è per i soldi. È che io pensavo che essere artisti fosse un'altra cosa. Jean-Paul vorrebbe vedere i figli e avere di nuovo un lavoro e un rapporto normale con la compagna Caroline, ma le vecchie paure sembrano impedirgli di prendere in mano la situazione e lo portano a rifugiarsi nel porno. Eva respinge i tentativi di socializzare del suo anziano vicino, anche lui in realtà chiuso nella sua solitudine, e le attenzioni di un amico che vorrebbe conoscerla. Maddalena si ritrova a insegnare pittura alla piccola Elena, una ragazzina solitaria, figlia di immigrati che lottano per affermare la loro dignità e respingere il razzismo che li circonda. Je vis, je meurs, je ris, je pleure. Tre storie, ma in realtà molte di più, quelle che si sfiorano tra Parigi, Helsinki e Roma. Persone vicine che si perdono e persone lontane che si avvicinano con diffidenza, filtrando ogni contatto invece di renderlo diretto e semplice. Il film della regista Ann Ritta Ciccone si prende tutto il tempo necessario per entrare nell'incomunicabilità e ci riesce bene. Tra i protagonisti anche Diane Fleury, proprio a lei chiediamo chi sia il prossimo tuo. Il prossimo tuo, secondo me, è il prossimo tuo. È ovvio che c'è anche un richiamo religioso, nel senso che è indubbio che il prossimo tuo abbia un eco nella cultura cristiana che obiettivamente c'è, e che tant'è vero in una delle tre storie c'è anche questo personaggio che poi è il figlio di Jean-Paul, che ha questa vocazione. Ma insomma, il tutto va al di là di credere o non credere. Il prossimo tuo è la porta da aprire alla vita, è sconfiggere la paura dell'altro. Ma qual è la chiave di lettura di questi tre mondi, così lontani, così vicini, verrebbe da dire? Quello che è bello nel film è proprio questo, la capacità di raccontare tre storie diverse che però hanno in comune l'isolamento e la paura, oltre alla possibilità di uscirne grazie ad un'altra persona che semplicemente ti mostra la vita, che c'è sempre, la speranza, in luoghi e tempi diversi, però in qualche modo speculare, in qualche modo parallele, senza toccarsi mai, sono molto simili, ci fanno sentire un po' come meno soli, proprio il fatto che quando sei solo puoi pensare al fatto che tanti altri sono soli come te. Sulle note della mitica scena del ballo di Scarpette Rosse, noi passiamo a parlare di un festival nel nostro girovagare settimanale per i festival della penisola. Oggi puntiamo su Bologna, perché lì comincia proprio in questo fine settimana e per 7 giorni durerà il Festival del Cinema Ritrovato. È un appuntamento straordinario per tutti gli amanti della storia del cinema, è un festival che ci viene invidiato e copiato un po' in giro per il mondo, come accade con le giornate del muto a Pordenone. Ebbene, noi siamo in collegamento con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che organizza Cinema Ritrovato. Ciao Gianluca. Ciao, eccoci qua. Si comincia da Scarpette Rosse di Powell e Pressburger, ecco perché le note che sentite in sottofondo. Perché questa scelta, Gianluca? Cinema Ritrovato è anche la storia di film a lungo desiderati da grandi cinefil o da intere generazioni. Scarpette Rosse, il film di Michael Powell del 1948, forse non dice moltissimo al pubblico italiano, ma per soprattutto per il pubblico anglosassone è un titolo mitico. Mitico perché intanto è un film che racconta della passione per l'arte, di come un'intera vita può essere dedicata a quella passione, e lo fa con una genialità di messa in scena, di colori, di trovate, di attori, di musica, di danza, che perfino per noi pubblico di oggi, così stordito dalle troppe cose che forse vediamo, è un film assolutamente sorprendente ed è un film anche che ci colpisce al cuore. E dicevo, soprattutto per il pubblico anglosassone è un titolo mitico, e in particolare per, come dire, il re di tutti i cinefil, cioè Martin Scorsese, è un po' il film della sua vita. Grazie a Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna. Di nuovo insieme alla quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea. Se c'è qualche manager, qualche amministratore delegato, qualche broker finanziario in ascolto, si tenga forte, perché gli strali di Michael Moore stanno per scagliarsi proprio contro queste categorie. Infatti nel nostro trailer USA parliamo oggi del nuovo film di Michael Moore. Michael Moore, che dopo averci raccontato il proliferare delle armi in America in Bowling a Columbine, dopo averci raccontato l'11 settembre in Fahrenheit 9/11 e ancora lo scadente sistema sanitario pubblico americano in Sico, stavolta se la scaglierà contro i protagonisti della crisi finanziaria americana diventata poi globale. La cosa bizzarra è che questo film, che esce all'inizio di ottobre, ancora un titolo non ce l'ha, ed è molto particolare anche il trailer. Ma cominciamo con il salutare la nostra Micaela Bellisario. Ciao Franco. Allora Micaela, dicevamo, un film ancora senza nome, esce il 2 ottobre negli Stati Uniti, ma il trailer è davvero interessante, perché più che un trailer è un appello di Michael Moore. Sì, in effetti Moore è stato davvero geniale in questo. Il trailer è davvero una mini presentazione del film. Non si vedono spezzoni delle scene più salienti, come succede in qualsiasi pellicola, ma lo stesso regista che presenta il progetto, spiegando che parlerà della crisi, dell'impatto sulla vita della popolazione, delle società che hanno contribuito al disastro economico attuale. Poi, in maniera ironica, chiede a tutti di mettere mano al portafogli. Ma sentite cosa dice. Hi. I'm Michael Moore. Instead of using this time to tell you about my new movie, I'd like to take a moment and ask you to join me in helping our fellow Americans. The downturn in the economy has hurt many people. People who've had no choice but to go on government assistance. Yet our welfare agencies can only do so much. That's why I'm asking you to reach into your pockets right now and lend a hand. Michael Moore, ovviamente l'avrete intuito, non parla dei lavoratori delle fabbriche in crisi, degli operai, di quelli che da un giorno all'altro sono diventati degli homeless, dei senza tetto, ma dei poveri, si fa per dire, amministratori delegati di Goldman Sachs, Citibank e Bank of America, insomma di tutti quegli istituti finanziari che hanno contribuito a provocare la crisi con il credito facile e mutui subprime. Ma sentiamo la seconda parte del trailer che chiarisce di più il messaggio di Moore. Ushers will be coming down the aisles to collect your donations for Citibank, Bank of America, AIG, Goldman Sachs, JP Morgan, and a host of other needy banks and corporations. Won't you please give generously? Give some more. It'll make you feel good. Michele, insomma, questo è per ora quello che si sa del film di Michael Moore sulla crisi economica. Su questo lavoro, peraltro, il regista ha detto che il film non sarà una lezione di economia, ma sarà più come un film di vampiri che banchettano con i soldi anziché con il sangue. Grazie Michela Bellisario, appuntamento la prossima settimana con Trailer USA. Ciao Franco, alla prossima settimana e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. Ed occupiamoci ora invece del DVD game, cominciando con il proporre la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Dimmi che non è quello che penso io. La moscovite è un tipo di formazione rocciosa molto sottile. Quanto sottile? Così sottile che il minimo cambiamento di pressione la può mandare in frantumi. E noi ci stiamo sopra. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a indovinare e a vincere il DVD di questo film. Facciamo un passo indietro. 7 giorni fa vi avevamo fatto ascoltare queste tracce. Sei stata a Parigi? Mai stata da nessuna parte. Beh, allora forse ti porterò con me, eh? Ci torno alla prima occasione che mi capita, ti assicuro. Le persone sono vive lì, non come qua. Si trattava di Revolutionary Road, il film di Sam Mendes con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Lo hanno indovinato per primi e hanno vinto quindi questo DVD Claudio Fabbri di Selvazzano Dentro, provincia di Padova, e Andrea Pini di Parma. Saranno loro appunto a ricevere questo DVD. E per farcelo raccontare, per farcene raccontare gli aspetti anche tecnici, noi siamo già in collegamento con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoci pronti per questa recensione di Revolutionary Road. L'opera distribuita da Paramount è stata estremamente curata dal punto di vista tecnico. Non abbiamo assolutamente nulla da eccepire per quanto riguarda la qualità video, assolutamente eccellente, e la sezione audio che contempla un'ottima traccia Dolby Digital multicanale. Ricordo che tra l'altro l'opera è disponibile anche in Blu-ray alta definizione, quindi grandissima qualità e salto netto per quanto riguarda le immagini. Per i contenuti speciali sono presenti il commento del regista assieme allo sceneggiatore, approfondimenti sulla lavorazione, la produzione del film, scene inedite e il trailer. E prima di passare alle altre recensioni, Claudio, ricordiamo sempre che al nostro indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it potete anche raccontarci in quale film vi siete particolarmente immedesimati. La nostra rubrica ormai Io in un film, che conta tutte le settimane decine di mail dei nostri ascoltatori e che diventerà nel mese di agosto, dalla fine di luglio a tutto il mese di agosto, una trasmissione quotidiana qui su Radio 24 nel tardo pomeriggio, per cercare di riflettere sui film e sull'identificazione che con i film La gente prova. Ci ha scritto tra gli altri questa settimana una ascoltatrice di Trieste, Fulvia Rossi, che dice di essersi identificata nel film Piano Solo di Riccardo Milani con un grande Kim Rossi Stewart. La ricorderete, la storia di un musicista ipersensibile che non riesce ad affrontare i fantasmi della sua anima e finisce tragicamente suicida. Tutto tra l'altro assolutamente ispirato alla vera drammatica vicenda di Luca Flores. Ebbene, Fulvia Rossi ci scrive: anch'io ho vissuto una storia d'amore con una persona con una sensibilità esasperata, simile a quella appunto di Luca. Ora, dice Fulvia, è finita già da 3 anni, ma anche se quando ci vediamo riusciamo a parlarci e sorriderci senza rancore, posso affermare che questa esperienza mi ha segnata davvero profondamente. Quindi Fulvia Rossi di Trieste rivede un pezzo della sua vita dentro il film Piano Solo di Riccardo Milani. Claudio Poffi, torniamo da te con le recensioni dei DVD, un paio di novità. Una non è tanto una novità in termini anagrafici, diciamo, perché Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno di John Avnet è un film del 1991, ma lo segnaliamo volentieri perché è un bel film innanzitutto e perché va nella direzione di una grande lacuna del mondo dell'home video e soprattutto del DVD, cioè quella proprio della copertura degli anni 80-90 che ancora non sono stati ripescati appunto in digitale. Allora ascoltiamo innanzitutto la clip. E metterò anche delle bombette in Penthouse e Playboy, così che esploderanno quando le aprono, e metterò al bando tutte le modelle che pesano meno di 140 kg! E darò metà delle spese militari alle persone ultra sessantenni e proclamerò le rughe desiderabili. Wanda, la giustizia era persecutrice degli oppressori. Ma quanti ormoni ti sei fatta, tesoro? I DVD di dall'Angelo Pictures ripropone finalmente una splendida commedia con alcune tinte drammatiche, la storia di queste 4 donne, 4 storie, 2 generazioni a confronto. Ritroviamo in splendida forma Katie Bates, che interpreta questa abbondante, diciamo, e depressa donna di mezza età che incontra in una casa di riposo per anziani una vivace ottantenne che le racconterà una storia che la aiuterà a risolvere i suoi problemi psicologici e di menage matrimoniale. La qualità del DVD è molto molto buona, c'è qualche piccolo problema nei momenti bui dove si sente la necessità di un maggiore contrasto. Sono disponibili le tracce in italiano e in inglese in Dolby Digital a 2 canali, mentre come extra sono presenti un approfondimento sulla lavorazione, interviste al cast e il trailer. E per chi ama l'azione invece una proposta sicuramente più recente, Defiance, un film della scorsa stagione diretto da Edward Zwick, ambientato nel 1941, la ribellione ai nazisti è il tema portante, protagonista Daniel Craig. Ascoltiamo la clip. Non abbiamo da mangiare! Domani faremo un'altra spedizione. Ma se l'ultima volta è andata male! È vero, abbiamo sbagliato, ma non ripeteremo l'errore. Ah sì? E tu come lo sai? Sono giorni che manca quasi tutto! Potremmo restare qui a lungo, perciò ci dobbiamo attrezzare. E come? Più sorveglianza, più gente a cercare provviste, più organizzazione. Non abbiamo armi, la gente si sta ammalando! Distribuisce Medusa la storia di questi sopravvissuti all'esecuzione sommaria dei genitori da parte dei nazisti. I 3 fratelli Bielski trovano prima rifugio tra i boschi della vicina Bielorussia, offrono poi riparo e libertà a oltre 1200 ebrei in fuga. L'opera arriva su DVD, ma anche Blu-ray alta definizione da Medusa, assolutamente grande qualità, e la riproposta, soprattutto per quanto riguarda il Blu-ray alta definizione, dell'originale ruvida cinematografia. C'è qualche extra interessante perché il collega Marco Spagnoli ha incontrato Daniel Craig e il regista Edward Zwick, oltre al trailer. Ricordo che nella versione Blu-ray alta definizione le tracce sono in DTS a elevata risoluzione, sia in italiano che in inglese. Grazie Claudio, allora appuntamento la prossima settimana con le recensioni di DVD. A presto, un saluto. È tutto anche per questa puntata della Rosa Purpurea. Ricordiamo l'appuntamento alla prossima settimana alle 18 del sabato, alle 9 della mattina in replica la domenica, e non dimenticate di scriverci alla rosapurpurea@radio24.it. Un saluto da Franco D'Assisi.